Roberto di Varese, cambia, metti sulla Zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Luciani, stanotte ti ho sognato, eri fantastico. Avevi un pantaloncino beige, un bermuda, i sandali, le calze bianche fatte all'uncinetto, quelle con i buchetti. Eri fantastico. Ragazzi, questi non si mettono nemmeno d'accordo su chi deve candidarsi a sindaco di Roma, figuriamoci se sono in grado di amministrare un casino, un bordello come la capitale. Cioè, figuriamoci se sono in grado di gestirla. Già non sono stati in grado di gestirla prima. Figuriamoci adesso, non si mettono nemmeno d'accordo sul candidato sindaco. Ci perdono tutti, dicono cazzate tutti. Allora, nell'ordine, la Meloni ha detto: sono incinta, non mi posso candidare. In realtà nascondono altre cose, nascondono incertezze, non vogliono perdere perché i favoriti sono i 5 Stelle. E però ci raccontano minchiate. Per esempio, la prima cosa che ha detto la Meloni, che pare che adesso domani si candidi, forse domani si candida, la prima cosa che ha detto la Meloni è annunciare innanzitutto la sua gravidanza urbi e torbi al Family Day. Tutto vabbè, nasce da quello. No, ma senti. Non vuol dire niente. No, ma senti, la prima cosa che ha detto la Meloni è questa. Sono qui a maggior ragione da donna, perché se Dio vuole, se va bene, il prossimo anno al Family Day ci vengo da mamma, visto che ho appena scoperto aspettare un bambino, quindi ci vengo ancora più, diciamo. E qui siamo al 30 gennaio. Il primo marzo dice: non mi candido al settimo mese di gravidanza per mettere pace nell'asilo del centrodestra. E francamente non sarebbe neanche così, diciamo, entusiasmante ritrovarsi a candidarsi sindaco di Roma al settimo mese di gravidanza, in buona sostanza, perché per mettere, diciamo così, pace nell'asilo del centrodestra. Il 15 marzo, davanti a un militante, la Meloni dice: non mi candido perché sono incinta. Dice: prova tu a essere incinta, risponde un militante. Perché non ti presenti alle elezioni a Roma? Perché sono incinta. E che fa? Amore mio, quando partorirò è il 2. Ma così la adesso il problema non esiste più, adesso pare che il problema non esista più, e almeno lì forse domani si candida. Dopo aver detto di sì a Bertolaso insieme a Berlusconi e Salvini ci ha ripensato qualche giorno dopo, fanno fuori Bertolaso, il quale, dopo aver detto la cazzata che ha detto domenica da Parenzo e l'Abate, quando ha detto non deve fare il sindaco, deve fare la mamma, non è lui che decide, al limite è la Meloni. Bertolaso dice: se cambiassi idea, fossi suo marito, mi preoccuperei. Cioè, altre dichiarazioni imbarazzanti. Adesso mette in mezzo pure il marito. A parte che il marito non ce l'ha la Meloni, perché non credo sia sposata. Cioè, il compagno, comunque. Beh, libero di cambiare idea. Se io fossi suo marito, mi preoccuperei molto, perché cercherei invece di coccolarla, di tranquillizzarla, di proteggerla, invece di mandarla allo sbaraglio in una situazione. Ma perché allo sbaraglio? Cioè, no, fare la perché Bertolaso immagina Roma come, è vero, come una giungla. Ma che c'entra? Perché una persona col pancione non può fare il sindaco. Ma com'è una giungla? No, ma infatti è un po' assurdo. Cioè, ma non è che devi andare in guerra col Kalashnikov. Cioè, ho capito, ma è come andare in guerra, vecchio. Sì, ma no, in guerra col Kalashnikov materialmente. Devi stare lì in ufficio 24 ore su 24. Ma che in ufficio, in campagna elettorale, devi battere casa per casa, strada per strada, Torbella Monaca, ragazzi, città, borgate. La gravidanza non è una malattia grave. No, non è una malattia grave. Una persona incinta, certo, può tranquillamente fare il candidato sindaco, certo, al sindaco. Per cui è la prima cosa che noi abbiamo detto. Per cui restiamo su questo punto qua. Ma ci mancherebbe. Poi lo stesso Bertolà, ma questi non sono in grado, ragazzi, sono tutti dei buffoni, non sono in grado di amministrare nulla. È due mesi che ci rompono i coglioni su questa cosa. Bertolaso dice: sarei l'uomo più felice della terra se Berlusconi mi chiedesse di non candidarmi. Ma scusa, hai detto che ti devi candidare a Roma? E poi sei l'uomo più felice della terra se Berlusconi ti dice di non candidarti? Ma chi te l'ha chiesto il sacrificio? Non è che i romani ti hanno chiesto il sacrificio, no! Te l'hanno chiesto gli altri, Salvini, Berlusconi e la Meloni. Poi si è sfilato Salvini, adesso si sfila pure la Meloni, perché è chiaro che si sfila, no? Ma se Berlusconi le chiedesse di... Su Corriere. Sì, su Corriere. Le chiedesse di smettere la candidatura e lei risponde: ci sarei l'uomo più felice della terra. Esatto. Ma ragazzi, dai, è insopportabile questa cosa, dai, è insopportabile. Berlusconi che dice: una mamma non può dedicarsi a Roma. Cioè, tu ti rendi conto? Berlusconi, no? Berlusconi. Un uomo di 80 anni che ancora governa un po' il centrodestra, che dice: Berlusconi, una mamma non può dedicarsi a Roma. Tu ti rendi conto o no? Una mamma non può dedicarsi perché a Roma. Vedrebbe la scomunica di Bertolaso come la scomunica della sua leadership, che è questo il vero. Ma alla fine sarà che Bertolaso che dice: io non mi ritiro, e toglierà le castagne dal fuoco a Berlusconi, dai, su. È una cosa chiara a tutti che una mamma non può dedicarsi a un lavoro, e in questo caso sarebbe un lavoro terribile, perché Roma è in una situazione terribile. E poi ci sono tutte le dichiarazioni della stessa Giorgia che fino a ieri sera avevano escluso una sua possibilità. Giustamente D'Agostino dice: Bertolaso voleva dire in realtà la Meloni vai a zappare. La frase di Bertolaso era classica, come si dice a tanti uomini politici: vai a zappare, ma vai a lavorare. E ha detto: vai a fare la mamma perché è incinta. Più che le gazzebarie. Che sono le gazzebarie in buona sostanza? Anche le cazzarie queste sono, perché che... ormai siamo a un livello tale che il bagaglino... Cioè, un po'. Cos'è la gazzebaria? Ma è qualcosa che si inventano, cioè la grande, i capocomici hanno preso il sopravvento e quindi tutti i partiti ormai non fanno altro che sfornare un candidato al giorno. Ah, c'ha ragione D'Agostino, eh. È veramente meglio del bagaglino, per questo il bagaglino sì, pare che ancora sopravviva, però insomma con alterne fortune. Cioè, perché veramente oggi le comiche, ma chi cazzo dà? Poi dice: vincono i 5 Stelle a Roma, ma te credo? C'è un candidato del PD che ha detto che le primarie sono una mezza farsa, un mezzo circo, e ha detto che il PD non ha un programma. Con tutto rispetto per Giachetti, questi altri che si scannano fino a due secondi fa sul candidato e fanno una figura di merda tutti quanti, la gente vota quella dei 5 Stelle. Ma è normale, no? Cioè, ma è naturale. Ma dovrebbe prendere il 70%, l'80% al primo turno. Vabbè, Salvini ieri sulla Boldrini, risposta della Boldrini. Qui alla Zanzara Salvini ha detto che la Boldrini è da internare, mettiamola sui barconi. Però sui barconi non per venire in Italia, ma il viaggio è all'indietro. Una parola sulla Boldrini, che ha detto che bisogna aumentare il numero di immigrati, 400.000, non so quanti. È matta. Da internare. Matta da internare. Gli italiani non fanno figli, portiamo 400.000 schiavi stranieri ogni anno in Italia. Da internare, da internare, da ricoverare, da curare. Da curare addirittura, come matti. Impeachment, sfiducia. Impeachment. Barcone per la Boldrini. Pure... in senso contrario, ovviamente. Boldrini. Ma io penso che si qualifichino da sole le parole di Salvini, d'altra parte, come dire, ci ha abituato a questo stile, ognuno c'ha il proprio, io prendo le distanze da queste modalità e non cadrò mai nella provocazione, quindi che dica quello che vuole. Però subito dopo ha detto che... Qua ci sta però, qua ci... Ma è una frase di circostanza della Boldrini. Lo stile diverso, giusto? Lo stile diverso, certo, lo stile diverso non è che scopre l'acqua calda. No, però aspetta, ha aggiunto una cosa. Ma che violente! Ha aggiunto una cosa. No, violente, assolutamente violente. Ha aggiunto una cosa. Le parole contengono violenza. Ma che violenza! Ha aggiunto una cosa molto semplice. Dice che fa la fine dei clandestini. No, ha detto tornare barconi all'indietro significa da portare indietro. Allora, non si sente un cazzo. Cosa ha detto la Boldrini? Che non bisogna stai zitto un attimo. Sta alla responsabilità dei conduttori. Ragazzi, togliete l'audio che non si sente una mazza. Sta alla responsabilità dei conduttori televisivi, forse anche radiofonici, ha detto non invitare più Salvini. Cioè, ha detto non bisogna più invitare Salvini in televisione o alla radio, non so dove. Vabbè. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you. Oh, Brunetta, c'è anche Brunetta, Brunetta, solito Brunetta scatenata contro i giornalisti, spettacolare, che gli chiedono di Roma, e lui, sentite come risponde. Bertolaso veramente è il miglior candidato possibile. Senta, ma se la Meloni si candiderà, voi lo farete lui. Ma quanti se? E a sinistra, voi, TG3? TG3, a sinistra. Noi non ci candidiamo. No, ma fate le stesse domande al povero candidato della sinistra, ai candidati della sinistra. Fate un po' delle domande anche a loro. TG3! Dopo Mafia Capitale sta implodendo la sinistra. Adesso ricominceremo a ricordare Mafia Capitale e come Mafia Capitale abbia innervato fino al midollo la sinistra romana. Mafia Capitale. Senta, anche Alemanno però. Mafia Capitale. Finora gli unici condannati sono del PD. Andrete avanti così, quindi? Assolutamente. Mafia Capitale. Gli unici condannati sono del PD. Cioè, tu capisci il loop? Brunetta continuamente ripete Mafia Capitale. Giornalista del TG3, bravissima, che non ha perso le staffe, con lo stesso tono di voce. Voi continuate, stesso tono di voce, senza perdere le staffe o mandarlo a quel paese. Bravissima la giornalista del TG3. Cioè, bravissima. Tu di fronte a Brunetta che fa così, l'unica cosa che trovi di originale da dire è che è leccare il culo alla giornalista del TG3. Se ti piace è così, se pensi che sia leccare il culo, benissimo. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Fantastico momento zanzaresco a Radio DJ questa mattina da Fabio Volo. Sentite un mitologico scontro con Mario Adinolfi sulla vicenda di cui abbiamo parlato anche noi ieri, del Kung Fu Panda. Questa follia di Adinolfi di immaginare che dietro Kung Fu Panda 3, che esce giovedì in tutte le sale in tutta Italia, ci sia un complotto gender, un complotto omosessuale, il panda che cresce in una famiglia formata da due uomini. L'ultima follia di Adinolfi. Pronto? Pronto? Adinolfi, sono Fabio Volo, la voce di Kung Fu Panda. Ride. Meraviglioso. Tu l'hai fatto per farti pubblicità? Perché c'è, devi diventare, sì, non puoi averla pensata la cosa che hai detto. La credo. L'hai visto il film? La verità. No, non l'ho visto. E allora hai sbagliato. Allora, siccome io l'ho doppiato, fammi. Per l'ho fatto perché ho letto te. Ascoltami, hai letto la mia intervista. Esatto. Sì. Senti una cosa, Adinolfi, ti faccio una domanda. Sì. Siccome ho capito che non hai visto il film, da certo, quello che hai detto, che non l'hai visto. Aver visto, esce il 17. No, era già fuori questo weekend. Ma ascoltami una cosa: comunque potevi aspettare di vederlo prima di dire quello che hai detto. Lavoro che è un lavoro che vedrà pure mia figlia, dicendo è puntato sul fatto che ci sono due papà. Questo è il tema. No. Perché io devo leggere Fabio Volo che mi racconta in maniera delicata, perché tutto è molto delicato, che però la questione chiave è la presenza. Non è la questione chiave, ma scusami, è una cosa, Adinolfi. Adinolfi, Adinolfi. Aspetta, no, perché dici le cose non vere. Ascoltami una cosa, l'hai letto il Vangelo? Mi devi ascoltare abbastanza. Ecco, Gesù non aveva due padri, non aveva Gesù, non aveva Giuseppe, che non è il suo biologico, che l'ha cresciuto, e poi c'era Dio che l'ha fatto. Fidati, questa è blasfemia, vabbè, ma comunque. No, perché Giuseppe non era quello che ha cresciuto Gesù. Che cazzo di Vangelo hai letto, Adinolfi? Adinolfi, con tutto l'affetto che io posso avere per te, ti voglio bene. Sì. Tu hai delle patologie che hanno trovato nella religione una casa confortevole, ma tu devi andare a farti o delle terapie o degli psicofarmaci, perché non puoi ragionare così. Cioè, tu non sai il danno che fai alle persone. Così, cosa devo fare? Cosa devo dire? Ma tu stai dicendo che uno che cresce un figlio non è un padre perché biologicamente non è un padre? Che cazzo è un vitello? e mi dice che ho le malattie e devo andare in... Hai delle psicologie? Ma certo, così come quando giochi a poker e poi il giorno dopo ti sposi a Las Vegas e poi diventi super cattolico. In una società normale tu ti faresti degli psicofarmaci o una terapia. Perché non puoi dire con gente che ci ascolta che se tu adotti un figlio non sei il padre, cazzo. Ma ho detto questo, sono eroi, figurati, la sedia contro il muro, porca puttana. Ma se un padre biologico ritrova il figlio e a fianco c'ha un padre che l'ha cresciuto, hai tutta la forza che vuoi, però mi dispiace se dici che io ho malattie, devo farmi di più. Hai delle patologie, certo, non c'è più di... Ma certo, perché non c'entra niente col cattolicesimo, perché io non ho letto il Vangelo. Ma io non ho letto il Vangelo, ma non c'entra niente. Tu ti nascondi dietro il nome di una religione perché devi curarti delle patologie. Vabbè, se questa è la tua valutazione, non c'è terreno di discussione. Adinolfi, ascoltami, poi la metto giù perché adesso sono tranquillo, scusami. Perdonami se sbrocco, tu fai benissimo a star lì nella tua posizione. Ascoltami, io ti voglio dire una cosa: se un bambino adottato è cresciuto da un uomo, quell'uomo è suo padre. Dopodiché, se arriva il padre biologico, l'ha abbandonato, non conosce. Ok, metti che torna, metti che cambia idea. Tu sei cattolico e quindi c'è il perdono. Cambia idea, torna. Chi è dei due il padre? Quel bambino riconoscerà sempre nel padre biologico suo padre, perché inevitabilmente... No, vabbè, altro che psicofarmaci, ti andate di fare eroina, ma vaffanculo, dai, Adinolfi, buona giornata. Allora, il punto fondamentale è questo, io sono contro le idee di Adinolfi, è chiaro che se tu gli dici che si è fatto dei psicofarmaci e che ha bisogno, che è affetto da gravi patologie, però, siccome ci crede quello che ha detto Fabio Volo, voglio dire a Fabio una cosa. Anche Adinolfi ci crede, questo dramma. Però voglio dire la verità, voglio dire le cose come stanno, perché conosco bene Adinolfi, la questione è molto semplice, non è affetto da alcuna patologia, se gli dici così è chiaro che quello, anzi, doveva buttarti il telefono in faccia. Il problema è che Adinolfi è un grande uomo di marketing, cioè persino su Kung Fu Panda lui riesce a stare sul pezzo, riesce a farsi chiamare dalle radio, riesce a stare sui giornali, riesce a farsi fare le pubblicità con di Adinolf, là, quella cazzo di pubblicità finta che... Speriamo che un po' creda anche a quel che dice, altrimenti... Sì, ci crede, però riesce a trasformare qualsiasi cosa in un motivo per farsi pubblicità. È straordinario, capito? Non c'è nessuna patologia, è la patologia del protagonismo su ogni vicenda, questa è la patologia. Vabbè, Pietro da Milano, vai, 800-24-00-24, Pietro. Sì, mi aggancio subito ad Adinolfi. Mi pare strano che Fabio Volo voglia spiegare ad Adinolfi che cosa deve pensare, mi sembra una cosa allucinante. Ma sì, ma chi se ne frega di quello che... Cioè, la cosa fondamentale è questa: se tu dai a qualcuno del malato per quello che pensa, è tutto finito, no? Cioè, non c'è più discussione. Cioè, è chiaro. Cioè, Adinolfi ha le sue idee e si vuole fare un po' di pubblicità per il film, per Kung Fu Panda, punto. Vuole farsi pubblicità, fa il politico deve comunicare e deve raggiungere il suo pubblico. E quindi è naturale che dica certe cose e che utilizzi degli stratagemmi, se lei ritiene che sia uno stratagemma. Vabbè, vai, che volevi dire, Pietro? Volevo dire che Giorgia Meloni, se non riesce a capire le esigenze di suo figlio che nascerà, che ha bisogno che la madre gli sia accanto in maniera prevalente, non può comprendere le esigenze dei cittadini. Non ho capito. Quindi cosa è c'entra? Che si candidi, perché cosa c'entra? Non ho capito, perché una persona in gravidanza non può fare il sindaco, non può fare il candidato sindaco, non ho capito. Sì, può fare il candidato sindaco, ma dopo, quando il bambino nasce, deve fare la mamma come prima cosa. Ma ho capito, non ma le persone può fare il sindaco, se ne occuperà di meno, ci saranno le babysitter, la porterà al Campidoglio e farà quello che deve fare. Ragazzi, comunque il figlio non ha avuto la presenza della madre a fianco, e questo non è bello. Non è bello, non che è... ma questo lascialo decidere a lei. Che cazzo te ne frega a te? Sì, sì, lei lo può decidere. Ma però che te ne frega? Non lo decide né lei, non le decide né lei né Berlusconi, che sia né lei, né Bertolaso né Berlusconi. Questo è chiaro. Berlusconi stamattina ha detto l'ennesima cazzata, perché ha detto una minchiata. Ha detto che deve fare la mamma e non può fare il sindaco di Roma perché è troppo impegnativo. Lasciasse decidere a lei. Decideranno i romani se è in grado di fare il sindaco, se si candiderà domani, punto e basta. Certo, pure lei ha le sue contraddizioni, perché prima aveva detto che non si sarebbe candidata. Ragazzi, sì, fermola, diciamo pure, fermola, non sono affari tuoi, non voti nemmeno a Roma, che cazzo vuoi dire alla Meloni? Non ho capito. Ah, ma se votassi a Roma non la voteresti, non la voteresti. No, perché non è non si dichiara adatta. Non si dichiara, ma che vuol dire non si dichiara adatta? Non ho capito. Sì, perché nel momento in cui trascura le esigenze del figlio, significa che non capisce le esigenze dei suoi cittadini. Ma che ne sai che trascura il figlio? Che ne sai? Si impegnerà sul lavoro, vedrà il figlio quanto. Questa fissazione di essere sempre presenti coi figli. Ti siete tutti come Parenzo. A Crucià, tu sei un sognatore. Io so Frogio, ma tu 200.000 euro non li vali proprio. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. La Zanzara. Parenzo, sono il tuo oracolo. Io sono cresciuto in una famiglia di comunisti e sindacalisti CGL che cuocevano salamelle alla festa dell'unità. In età adulta ho avuto la svolta leghista perché ho ragionato con la mia testa. Per tuo figlio sarà la stessa cosa. Tuo figlio ragionerà con la sua testa e non con quella della tua famiglia. Luciani, sono bizzarri. Senti, basta merda! Basta merda! Basta merda! Non capisco se questo qua è un incitamento a parlare ancora delle vicende di pulizia intima. Oppure si è rotto le scatole dell'argomento. Ha ragione, bizzarro. Dell'argomento sgommata, ma conoscendo Luca non sono così sicuro, eh. Non sono hai così ragione. Sicuro. Ha ragione. Sì, ma bisogna capire una cosa, io ho quasi sempre ragione nella scelta degli argomenti, ho avuto, continuo ad avere ed avrò sempre ragione, sempre, ma non lo dico io, cioè, lo dicono i dati. Sì, però è che no, ho sempre ragione, ricordati, sempre. Ma sempre. Sempre, sempre ragione, alla fine sempre, a conti fatti ho sempre ragione. Alla fine. Però ragazzi, cioè, vi voglio raccontare una cosa. Se volete chiamatemi a casa. Sentite bene, 049, gli do il numero, chiamami a casa, avete il numero di casa mio, sono qua. Se dite che non mi sentite, chiamate a casa. Ignoratelo. Allora, vi racconto una cosa che riguarda Pantani, il grande complottismo all'italiana. Ora, Pantani è una sorta di mito in Italia, no? Pur essendo stato squalificato per doping e pur essendo morto in... gonfio di cocaina, diciamo la verità, gonfio di cocaina in un albergo, per carità, nessuna condanna per questo, è morto e dunque viva Pantani. Però è passata l'idea che ci sia stato una specie di complotto sulla sua morte, cioè che l'abbiano voluto uccidere, cosa che i cui riscontri non sono mai stati poi verificati, non è mai stata trovata una pista solida per l'uccisione di Pantani. È morto in una stanza d'albergo gonfio di cocaina. La seconda cosa è la vicenda dei valori del sangue trovati leggermente dopati a Madonna di Campiglio nel 99. La storia della camorra, cioè noi riusciamo anche nella morte di Pantani a trovare un complotto su tutto. Adesso, secondo un camorrista pentito che riporta le parole di Vallanzasca in carcere, ci sarebbe stato un complotto della camorra, ascoltate bene, un complotto della camorra che preoccupata da una perdita elevata che avrebbe subito per causa delle scommesse sulla vittoria di Pantani al Giro, avrebbe corrotto i medici con le provette e dunque avrebbe distorto i valori di ematocrito, il valore del sangue di Pantani. L'intercettazione che spiegherebbe tutto, in realtà non spiega una mazza. Ma la Sasha, poche sere fa ha fatto una dichiarazione. Dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto: guarda che il Giro d'Italia non lo vince Pantani, non arriva a fine, perché sennò cashbanga tutte cose, perché si hanno guardato tutto quanto con la IS. E quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il Giro a Pantani. Ha deviato il Giro a Pantani, cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Questa cosa ci viene a saperla anche la mamma. Era questa cosa? Sì. Ok. Questo era in cella con Ballanzasca, capito? Cioè lo hanno interrogato su Pantani e dice, sostiene che la camorra avrebbe avuto un interesse per questa cosa, insieme ad altre rivelazioni. Bah. Adesso tu ti puoi immaginare che la camorra, preoccupata dalle scommesse, riesce in quel momento a corrompere i medici, medici che si sono presentati da Pantani, facendo sostituire le provette, dunque... Ma dai ragazzi, non su. Non so, bisognerebbe sentire il parere di Auriemma su questo argomento sportivo. Lascia perdere Auriemma, che sei incazzato oggi, lascia perdere. Incazzato. Io mi sono incazzato, poi abbiamo fatto pace via internet. Lascia perdere Auriemma. Francesco da Bologna, vai Francesco. Pronto, eccomi. Dimmi. Allora, molto velocemente, due cose. Su Pantani, giusto per quanto riguarda la storia Pantani, la leggenda narra che già dai tempi del Napoli di Maradona, la camorra drogasse Maradona. Sì, ma che vuol dire la leggenda narra? Cosa vuol dire la leggenda narra? Non c'è qui, non è che c'è la leggenda narra. Cioè, qui c'è la... Non ci sono prove tangibili. Ma non c'è una mezza prova, tranne le dichiarazioni dei pentiti. Cioè, non c'è niente, non c'è una prova concreta. Il magistrato scrive: è possibile, è verosimile che, eccetera, eccetera. Ma scusate, ragazzi. Comunque non sarebbe la prima volta. Poi, sì, ma ho capito. Ma secondo te la camorra è in grado di far cambiare le provette di Pantani per trasformarle in un dopato e così farlo escludere dal Giro d'Italia e così non perdere le scommesse? Ma dai ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? È arrivata in ambiti dove nessuno sarebbe mai sognato. Ma ci sono 3-4 io capisco i magistrati, l'avvocato della madre di Pantani, la mamma di Pantani, per carità, non dico un cazzo, ma qualche volta la verità è molto più semplice. Era uno che si era rovinato la vita. Questo per quello che riguarda la morte, e per quello che riguarda la cosa sportiva, è che, come tanti altri, magari era una cosa che l'abbiano avuto fottere gli organizzatori o da altri, eccetera. Una cosa è la camorra e Pantani. Ma ragazzi, su, dai, di che parliamo? Dai, Francesco, dimmi. Va bene, altra cosa che ti volevo dire era su Adinolfi, perché Adinolfi, guarda, io lo sento, cioè lo sento perché mi ascolto, quindi lo seguo, eccetera. Sì, eccetera. Sì. Però. In qualunque paese civile, non dico che l'avrebbero rinchiuso, perché ognuno è giusto che abbia le proprie opinioni, però porca troia, come si fa a dargli retta? Come si fa anche a vuol dire dargli retta, ragazzi? Ma porca puttana, ma uno ha diritto di dire anche le peggiori corbellerie o no? Cioè, uno ha diritto di dire anche le peggiori corbellerie. Lui sostiene, in questo caso, secondo me, ci fa e non ci è. Sostiene che quel film lì sia un film che è, come dire, una delle tante, dei tanti pezzetti, uno dei tanti tasselli della propaganda gender, la propaganda che vuole fare passare un messaggio ai giovani, ai ragazzi, che si può crescere bene anche in una famiglia con due uomini. Ma chiaramente questa qua è una follia, secondo me. Cioè, dopodiché, lui è convinto che nel mondo si voglia affermare in tutti i modi, anche nel cinema, questa sorta di verità. No, è vero che attraverso le favole, i cartoni animati, si possono far passare dei messaggi. Sì, ma io non credo che il messaggio di Kung Fu Panda... Dico, non so se è quello, ma ben fosse quello, anche le favole si adeguano alle realtà che la vita ti propone. Ma scusami, ma quella cazzo di Cappuccetto Rosso, ad esempio, che per fortuna uccide il lupo, no? Sì. Lì gli psicologi hanno scritto che è la grande metafora dell'abbandono, del distaccamento dall'utero materno, e quindi uno può trovare metafore in ogni, in ogni grandissima favola, sì, no? Sì. Gli animalisti che cazzo dicono della favola di Cappuccetto Rosso, ad esempio? Adesso romperanno le balle anche su Cappuccetto Rosso che uccide il lupo, gli animalisti. Forse i vegani non racconteranno Cappuccetto Rosso ai loro bambini. ma chi se ne frega? Cioè, dietro ogni favola tu puoi, però questo è vero, sì, eh? Ma non mi pare, però non mi pare che il messaggio però, principale, anche, scusa, no, ma io ti dico, rimango al punto, anche fosse che nell'immaginario collettivo dei chi ha scritto quel cazzo di panda lì, come si chiama? Kung Fu Panda. Io ho visto sia l'uno che il due, adesso vado a vedere il tre. A maggior ragione vado a vedere il tre. Non me ne frega nulla, ma a maggior ragione. Mia figlia odia quel panda lì, mi fa schifo quel panda. Un panda idiota, mi fa schifo il panda. Ma adesso, siccome di noi si dice non andare a vedere, vado a vederlo. Allora, se ci fosse veramente questo messaggio del padre che cresce, i due panda maschi che crescono, benissimo, perché attraverso quella favola si può far passare un messaggio. Ho capito, però uno allora ha il diritto di opporsi a questa cosa. Deve far passare il messaggio che le famiglie non sono fatte solo da papà, mamma e bambino. D'accordo, però allora Adinolfi fa bene... Adinolfi fa bene a fare che cosa? Va bene a non portare sua figlia al cinema, se ritiene di... Vabbè, ma non è che ha proposto, non credo che abbia proposto il boicottaggio di Kung Fu Panda, mi auguro di no, ma voglio dire... Vabbè, Marco da Udine, fammi sentire Marco da Udine, dai, Marco. Ciao a tutti. Volevo intervenire, ieri sera avete parlato di questa genialata della Boldrini barra Parenzo, sì, che dobbiamo ringraziare gli immigrati perché ci pagano le pensioni. Sì. Certo, Parenzo però deve dirmi adesso chi è che ci paga i sussidi di disoccupazione agli italiani. Non vorrei essere demagogo o banale, però cinicamente, visto che non siamo in piena occupazione, se io per assumere una persona che mi paga i contributi, devo averne un'altra in cassa integrazione o in disoccupazione, al quale devo pagare dei contributi di disoccupazione, sono un coglione, c'è una cecità. Sì, però totale. Marco, la questione principale è un'altra. La Boldrini e Parenzo e altri sono convinti che se non ci saranno gli immigrati non ci salviamo. Io ho il diritto di dire che questa qua è una boiata, perché dietro questi discorsi c'è questa considerazione. Secondo la Boldrini, forse anche secondo Parenzo, credo, cioè senza gli immigrati siamo in mezzo alla merda. Ora, non è proprio così, cioè non credo sia così. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiana. La Zanzara. Anche nel podcast della Zanzara c'è lo spot della Rosita Celentano. Cruciani, non conti proprio un cazzo. Volevo informare tutti i geni del marketing di Radio 24 che qualunque pubblicità di programma o prodotto inserito nel podcast sarà boicottato al 100% dal sottoscritto e da qualunque altro ascoltatore della Zanzara serio. Allora, a proposito della Boldrini e di quello che ha detto di Salvini, come sapete ieri Salvini qui alla Zanzara ha detto che la Boldrini è da internare, mettiamola sui barconi, è matta, si deve curare, eccetera eccetera, con riferimento a un'affermazione sull'immigrazione che è necessaria. La Boldrini, oltre ad aver detto di non voler rispondere a Salvini, si qualifica da solo, non voglio cadere nella provocazione, ha però aggiunto una frase: faccio un appello agli organi di informazione, non invitatelo più o sarete corresponsabili delle cose che dice. Adesso, se ha qualcosa da dire a Salvini, se pensa che Salvini l'abbia infamata o l'abbia diffamata, si può rivolgere ai tribunali della Repubblica, dato che lei tra l'altro è la terza carica dello Stato. Se lei fa un appello agli organi di informazione, però qui siamo in un altro terreno, e allora noi personalmente facciamo come cazzo ci pare. Non è che la Boldrini ci può dire invitate questo, invitate quest'altro, non invitatelo più perché siete corresponsabili. Calma, non siamo nell'Unione Sovietica, non siamo nell'URSS, non siamo a Cuba, siamo in Italia, e per fortuna non ci deve dire il Presidente della Camera chi invitare o chi non invitare. Noi invitiamo, se poi lei ha qualcosa da ridire a Salvini, a noi, ad altre persone, si rivolge ai tribunali della Repubblica per tutti i reati possibili e immaginabili. Ognuno invita chi vuole. Poi, scusami, adesso per carità, Salvini le dice di tutti i colori sulla Boldrini, è un dibattito politico. Se lei pensa che non sia dibattito politico e sia invece è una questione di, no, di lesa maestà, sia una questione di offese personali, ripeto, ci sono i tribunali. Certo. Ci sono i tribunali. Però la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera, che dice ai giornali, alle TV, alle radio, di non invitare un leader politico di una forza politica rappresentata in Parlamento? Non è strana questa cosa qua? Non è molto più grave di quello che dice Salvini? Secondo me sì, però fate voi, Allora, andiamo a Pisa da Stefano, vai. Ti chiamavo per dirti che stasera è stata fuori dal vaso, perché Pantani non è mai stato trovato positivo o dopato. No, i valori sono stati trovati alti. Dunque dopato in questo senso, naturalmente. Ascoltami, io ho vissuto 21 anni nel mondo del ciclismo. Sì. 21. Sì. E ti posso spiegare che quella era per la tutela della salute. Quando un valore era fuori dalla norma, il corridore viene sospeso, non squalificato né nulla, no. Sospeso. Stefano, io non ho capito, lasciamo perdere quello che è successo, è roba del passato. Non ho capito che cosa hai da rimproverarmi, scusami. Perché tutti voi alla televisione vi piace dirlo che era dopato. Ma non è così, è stato trovato dopato in vita tua. Basta mettere su Google dopato, non è dopato. Ma i valori alti del sangue, da che cosa vengono, ragazzi? Da che cosa vengono? A meno che uno non crede che sia un complotto, a meno che uno non creda altre cose. Beh, derivano dal fatto che uno si dopa. Punto e basta. Chi l'ha detto? Ma come chi l'ha detto? Che cosa vuol dire? Una conseguenza logica, no? Perché uno deve essere dopato per sentito dire. Ma io non lo so se per sentito dire. Ma cosa vuol dire? I valori del sangue erano alterati. Punto e basta. I valori del sangue erano alterati. Per quale motivo? Ma non lo so, Stefano, qui non stiamo facendo la ricostruzione del caso Pantani alle 19.40 di giorno di marzo. Ma è evidente, scusa, sto leggendo un titolo di giornali che non sono contrari a Pantani, Dopato tra i dopati, e così Pantani resta il più grande di tutti. Ma ti faccio un esempio: 3.000 giornali, è passata la cosa, anche se poi non è stata provata da altro se non da quel test a Madonna di Campiglio, che Pantani fosse dopato, punto e basta. Cioè avesse i valori del sangue alterato, successivamente è morto in circostanze gravissime. Facevo il meccanico alla Saeco. Allora? Però come funzionava il mondo? Dunque, però secondo te è stato trovato dopo. D'accordo, sono stati trovati alterati i valori del sangue. Secondo te, non ho capito, Pantani è morto perché c'è stato un complotto? No, è morto, lascia perdere. È morto per un'altra cosa. No, perché qualcuno pensa anche che là ci sia stato ucciso, che non sia stato. Quello è un'altra cosa. Ma c'è stato un complotto della Camorra? C'è stato un complotto della Camorra ai suoi danni? Ma le chiacchiere erano quelle. Le chiacchiere erano quelle quando? Subito? Tu eri lì al Giro d'Italia? Ero al Giro d'Italia, da subito le chiacchiere erano quelle, da subito, da quel giorno lì medesimo. Dal giorno le chiacchiere furono quelle. D'accordo, le chiacchiere, chi lo diceva? Gli addetti ai lavori? Gli addetti ai lavori dicevano quello. Cioè della Camorra? Pantani aveva fatto 8 controlli quel Giro d'Italia lì, no uno, 8. Dunque? Perché non ha mai avuto problemi. Dunque? Dunque, perché l'hanno voluto fottere? Penso di sì. Dunque, tu che sei un tecnico, diciamo, eri no, a quel giro. Sono tecnico, io lavoravo nel mondo, in quel mondo lì. Ok, lavoravi in quel mondo lì, in questo senso, dicevo. Eri al digitale, sì. Da subito si diffusero voci sull'intervento della Camorra. Sì, da subito. Da scusami, subito. Stefano, ma i medici allora sono stati corrotti? Comprati, ma io quello non lo so. Io non lo so. I medici che sono stati in qualche modo sta questi. Io quel giorno lì avevo il dottore della mia squadra, era a fare dei controlli quando hanno fatto a Pantani quelle provette. Mm. 3 volte i controlli non sono risultati uguali l'uno dall'altro. Poi non dico altro, se no. No, dimmi. No, poi basta, se no basta. Ti va troppo avanti. No, si va troppo avanti. Allora, complotto. Sei convinto del complotto della Camorra? No, a Pantani fu fatto il controllo del sangue, l'ematocrito, quella mattina lì 3 volte perché non tornava. Sì. E delle 3 volte non fu mai il controllo, non venne mai uno uguale all'altro. Il controllo non venne mai. Sì, mi ricordo questa cosa. Dunque, secondo te cosa significa? Secondo me c'è qualcosa di strano. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che ci sia stato qualcosa di strano. Cioè l'hanno voluto fottere chi? La Camorra, perché aveva paura delle scommesse? Io non lo so, qualcuno l'ha voluto fottere. Qualcuno l'ha voluto fottere. Secondo te era uno che si dopava lui? No, non si dopava lui. Lui non si dopava? No. E al contrario di altri in quel mondo, poi, come poi è stato dimostrato? No, nessuno si dopava. Si dopava chi trovavano positivo. Chi non trovavano positivo non si dopava. Vabbè, è così, è troppo semplice però così. Anche, è semplice, no, è così, la vita è questa. Anche Armstrong per una vita non è stato trovato positivo e poi si è scoperto che in realtà... Ma poi l'hanno trovato positivo. Lo coprivano, insomma, ho capito. Sì. Ma l'hanno trovato positivo perché... Solo nel mondo del ciclismo si va a prendere un esame fatto 6 anni prima e viene riformulato. Solo nel mondo del ciclismo esiste questa cosa. Ragazzi, però... lo so, cioè, però... Perché tu pensi che anche Armstrong, che invece Armstrong... Ma a parte che Armstrong ha confessato poi, per cui... Va bene, Armstrong ha confessato. Armstrong si diceva che lui per un periodo ha assunto delle medicine per via del tumore che aveva avuto a testicoli. Sei troppo buonista, Stefano. Io non capisco questa cosa qua della camorra, dai. Cioè, francamente una cosa ridicola. Se pensi che la camorra potesse intervenire su Pantani, sui valori del sangue di Pantani, dai, su. Cioè, non diciamo stronzate, dai. Detto quel giorno là, il giorno del... Sì, ma mi dicono che i controlli diversi, perché non funzionava la sostanza, cioè non c'è una ragione anche dei controlli diversi, Il giorno dopo, c'è scritto tutto sport il giorno dopo, Pantani, secondo loro Pantani è stato incastrato. La prima pagina di tutto sport del giorno dopo. Vabbè, ma lascia perdere che poi quello che è stato scritto dai giornali. Io ti sto dicendo semplicemente una cosa: le prove di questo famoso complotto contro Pantani non sono mai uscite fuori. Non sono mai venute fuori. Ma anche perché dovevano coinvolgere pure quei medici lì. Ma Falcone e Borsellino, chi l'ha ammazzato? Vabbè, ma adesso Falcone e Borsellino, dai, su. Le prove sono venute fuori. Va bene, dai, ciao Stefano, grazie, grazie. Carlo, provincia di Genova, vai. Sì, ciao Cruciani. Sì. Faccio una premessa. C'è troppa gente che gli viene giù la segatura dalle orecchie, vuol dire farsi le seghe al cervello. Comunque, vado sul punto di Bertolaso. Sì. Questa storia di Bertolaso è stata strumentalizzata per conto mio. Siccome il personaggio non è un politico e non sa magari pesare quello che dice, però quello che dice è che lui è l'unica persona che può mettere a posto la capitale, perché è un operativo. Questa è la situazione. Purtroppo la figura di merda la sta facendo sia Salvini, che io lo stimavo fino a ieri, però ha fatto una figura di merda, e anche la Meloni, che si sta facendo tirare dentro. È una bravissima persona, però si sta facendo tirare dentro. Chi è una bravissima persona? La Meloni. Sì, ho capito, ragazzi. Non è che l'unico che può fare qualcosa di buono a Roma è Bertolaso. Cioè Bertolaso Anche Bertolaso. Però è partito, tutti hanno dimostrato di fare solo del casino a partire da Beltroni, perché noi parliamo tanto del centrodestra che ha rovinato Roma. Ma che c'entra Beltroni? Guardate che la storia parte da lontano. Sì, ma adesso Beltroni non c'entra niente, è fuori causa, non c'entra nulla. Allora, cosa è successo? Però, Bertolaso aveva detto all'inizio che c'aveva i nipoti e non si poteva candidare, e poi alla fine l'ha convinto Berlusconi. Ti faccio una domanda. Dimmi. Scusa, ma se c'era un accordo che Bertolaso era il candidato del centrodestra, per una frase ha detto che io appoggerei la persona del centro-sinistra, per una frase del genere Salvini si tira indietro? Ma allora è un pirla due volte. No, ma lì c'è stata una questione politica, le frasi dette da Bertolaso sono state un pretesto, cioè secondo me Salvini voleva mettere un po' in difficoltà Berlusconi, in parte poi non era convinto nemmeno del candidato, perché a un certo punto quando questo ha cominciato a dire non ho mai votato Berlusconi, Rutelli è un genio e se non fossi io in campo voterei Giachetti, e i rom sono vessati, dice vabbè, ma questo qua è un candidato del centrodestra o un candidato della Caritas, cioè, o un candidato dell'estrema sinistra? Beh sì, qualcuno si è posto la domanda della carica. Allora, con noi Daniela Santanchè, buonasera, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Oh. Era tanto che non la si sentiva e sentivo... Ma come mai? Bravo Parenzo, poteva vivere senza di me. Parenzo ogni tanto mi chiede, ogni giorno, ma quando è che invitiamo? Quando è che invitiamo? No, sentivo proprio, non fisicamente la mancanza, no, ma sentivo proprio la mancanza di Che cosa? Della Santanchè. Di espressione. No, proprio delle battaglia della Sant'Anchè, di mandare a fare il culo i rom, gli immigrati. È una cosa che proprio mi mancava, sentivo che mi mancava dei terroristi, so, degli arabi. Però a noi non ci mancano né gli zingari né i clandestini, a noi non ci mancano, li mancheranno a lei, ma noi siamo di Bertolaso dalla Sant'Anchè, sentiamo cosa dice. No, però è importante questa cosa qua, perché credo che su Novella 2000, che è di proprietà della signora Sant'Anchè, sul sito di Novella 2000, ha detto... Scusami un attimo, fermo tutto. Sì, dimmi. Sì. Scusami, perché io oggi ero in treno, perché domani Chiara Sant'Anchè si laurea mio fratello in giurisprudenza. E chi se ne frega. Che meraviglia. Sì, no, chi se ne frega, sì, è sempre un traguardo. Allora c'è un parenzo intelligente. C'è un parenzo laureato, più che altro. C'è un parenzo intelligente. Ma come dire, si laurea a Trento domani, anzi, a proposito, se dopo che sei laureato mi puoi suggerire, lo puoi piazzare da qualche parte, mi fai una cortesia. Allora, la questione è questa. Ho scoperto adesso... Sì. Che Salvini è ufficialmente con la Isoardi? Sì, è uno scoop, però non di Novella 2000 di proprietà della Sant'Anchè. No, ma aspetta, perché è uscito. Io l'ho visto adesso. Mi meraviglio che tu hai perso tempo a parlare delle sgommate di merda per un sacco di tempo. E in realtà, su una cosa, Salvini bacia la Isoardi, è la donna della mia vita. Sì, ma ragazzi miei, ma fermi tutto, la Napoletano cosa sta facendo? No, è una cosa uscita. Roberto, va del resto, Diddle, cambiare tutto, subito. No, non so se sia un virgolettato vero di Salvini. È questo la qua. Donna della mia vita, c'è scritto qua, ragazzi. Sì, è la donna della mia vita. Non riesco a vivere senza di lei. E vabbè, ma siamo tutti contenti. Ragazzi miei, come vabbè? E siamo tutti contenti, sta con la Isoardi. No, ma è il punto del giorno. Vabbè, ma ho capito, ma sono cazzi di Salvini, i suoi amori, no? Ma ieri parlavi delle emorroidi, delle cose, ma... Scusi, signora Sant'Anchè, lei è contenta del fidanzamento di Salvini? Ma quando lascio un amore sono sempre felice, perché l'amore è una forza bestiale. Vuole fare... felice per tutti quelli che sono innamorati, ragazzi miei, vuole fare gli auguri a signor Salvini di... ma glieli faccio assolutamente, ma io sono sempre felice a favore dell'amore, a favore come dell'amore. La nascita è sempre un momento molto allora faccia anche gli auguri a Parenzo, che ha avuto da pochissimo un bambino, terzo figlio di Parenzo. Se fosse per Parenzo il PIL italiano, diciamo la decrescita italiana sarebbe arrestata. Inseminator proprio, sì, inseminator, bravo, tre figli a 40 anni, beh, un bel record, tre figli bravo, a 40 anni, bravo. Questo è un esempio. La giovane Italia, la moglie, però, è onestamente più che lui. Sì, brava, esatto. I virgulti, ha visto? Complimenti e gli auguri alla moglie. Beh, sì, anche compatibile. Ma invece ho fatto una cosa importante, secondo me. Ho detto a Passera, vai a fare il padre. Perché sapete che oggi Passera è diventato papà. Ma Passera e chi? E ho fatto un bel tweet, Corrado Passera, candidato. Sì. Passera qua, chi? Ah, quello che è candidato, non lo sa quello nessuno. Quello che è candidato, gli ho detto, Passera, ma vai a fare il padre. Non lo sa nessuno, però. È diventato papà da poche ore, dico, adesso si ritirerà dalla corsa candidato perché deve fare il padre a tempo pieno. Allora, però ci sta dicendo che Berlusconi ha detto una stronzata. No, io sto dicendo a Passera vai a fare il papà. Vabbè, Passera, chi se ne frega, non lo sa nessuno. Non correre, dimettiti, vai a fare vabbè, il papà. D'accordo. Ma Berlusconi però ha detto una stupidaggine stamattina. Ma io dico, a me non interessa cosa dicono gli altri. Ma come no, non mi interessa. Ma come non ti interessa Berlusconi? Non mi interessa. Berlusconi ha detto... Nel senso che Berlusconi è un maschio e come tutti gli uomini, se consentite, parlare della maternità potete solo fare una cosa. Stare zitti. Zitti. Perché siccome non ci sarà legge di Renzi o di altri che permetterà a voi uomini di diventare madri, per cui voglio dire, vi prego, astenetevi. E datemi il congedo parentale. Una madre... può decidere solo la madre se è giusto fare una cosa, no, se la sente di fare una cosa. Io quando se ero incinta è stato il periodo più bello della mia vita. Ma se ero mi pagate per fare il papà e stare a casa, io sto a casa volentieri. Però adesso al di là delle questioni di Parenzo... Quindi, se io potessi prendere il congedo parentale... Io lo farei, Però adesso la questione non è Parenzo, di cui ma francamente ce ne freghiamo. Lei può fare quello che vuole. Allora, io la questione. La questione. Si d'accordo. Deve intromettere in una gravidanza di una donna e decidere se può fare il candidato, se non lo può fare, se può fare il sindaco, se non lo può fare. Dunque, Bertolaso. Gli uomini di astenersi dal giudizio. Bertolaso e Berlusconi. Perché un bambino che cresce dentro di noi è una forza pazzesca e solo noi donne possiamo. Benissimo, ma io sono d'accordissimo. Per una volta state a cuccia. Io sono d'accordissimo al 100%, però ci sono due problemi. Il primo è la Meloni stessa che ha detto che non si voleva candidare all'inizio. Primo problema. Ma solo i cretini possono non cambiare idea, no? Beh, ho capito. Allora, bisogna rispettare il fatto che cambi idea la Meloni? Dai, rispettiamo pure questo. Sì, ma che lei non ha mai cambiato idea? No, va bene, io va bene. Idea 10 volte va bene, però uno possiamo beati notare coloro che hanno certezze. Possiamo notare che vive nei dubbi. Possiamo notare che sin dall'inizio ha detto che non si può fare campagna elettorale con sette mesi, con un pancione di sette mesi, ma eccetera. Chi l'ha detto che non lei, si può fare campagna elettorale? Lei l'ha detto, l'ha diretta lei aveva detto una cazzata. Ho capito, appunto. Ho lavorato sino al lunedì 15 aprile alle 20 e mio figlio è nato alle 21:15. La campagna elettorale magari è un'altra cosa la campagna elettorale. Ma guardi, non è una gravidanza. Le nostre contadine tanti anni fa, qualche decennio, cosa facevano? Andavano in campagna, aprivano le gambe, partorivano e tornavano a lavorare nei campi. Non è una malattia la gravidanza. Non è una malattia. Daniela, è la stessa cosa che io ho detto da giorni, però la candidata, quella che sarà molto probabilmente il candidato a Roma. Ma io non sono Berlusconi, non sono la Berlusconi Meloni. Ha detto io che fa che... Mio... No, ma scusa. Ho capito, allora Berlusconi è un maschilista. Berlusconi è un maschilista. Berlusconi è quello che è. Voi parlate con la Santanchè, io vi dico, agli uomini state zitti. Ho capito, ne godete, partecipate. Non li fate i bambini, non ce l'avete dentro. Il capo del tuo partito ha detto che deve fare la mamma ed è troppo difficile fare il sindaco, che una mamma non può fare il sindaco, ha detto una minchiata, diciamolo. Ma non può dire Berlusconi, non ha potuto dire che te lo faccio fatemelo sentire, vi prego. Se l'ha detto, ha sbagliato. Ha detto una cazzata, è molto semplice. E se l'ha detto, ma quando lo dice lei, perché io non mi esprimo in questi termini, perché sono Come no, una cazzata comunque è una cosa che dicono tutti. E anche il mio leader, io dico, se Berlusconi ha detto che chi incinto non può fare il sindaco, ha sbagliato, perché non lo può decidere lui. Deve stare zitto pure lui. Non di fronte lo può alla... decidere Berlusconi, non lo può decidere Bertolaso, Cruciani, la Santanchè, non lo può decidere nessuno. E la Meloni ha diritto di cambiare idea. Fermi tutti, torniamo dopo la pubblicità. La Zanzara. A proposito di benedizioni pasquali da parte dei preti, una volta ha provato a venire a casa mia a benedirmi la casa e io dalla porta gli ho detto no grazie, non sono interessato. La sua risposta è stata non sa cosa si perde. Ma sono anche spiritosi. Ragazzi, però io ancora non ci posso credere a una cosa, perché più leggo le dichiarazioni della Boldrini su Salvini, più vado ai matti, Parenzo. Mi devi fermare in questa cosa qua, mi devi veramente bloccare. No, ma su che cosa, scusa? No, quello che ho detto prima. Cioè, quando una dice faccio appello agli organi di informazione, faccio un appello agli organi di informazione. No, ma io non ti posso fermare, perché su questo purtroppo hai ragione, nel senso che io ritengo che se la come te, che se la Boldrini si sente attaccata, offesa, io credo che abbia tutti gli strumenti per andare in tribunale e giustamente, io dico in questo caso... Ma quello lascialo decidere i giudici se giustamente o no, non ti mettere dalla parte dei giudici. Insomma. No, non hai capito. Ho detto che lei ha gli strumenti per, se si ritiene offesa, giustamente... Sì. Può querelare, quindi... Però qui c'è un'altra cosa, dice questo... faccio un appello agli organi di informazione, non invitatelo più Salvini o sarete corresponsabili delle cose che dice. Adesso, no, lì bisogna prendere le... come al solito, dire questo che dice lei. Capito la tua presidente della Camera, signora Santanchè, cosa dice? Dice che Salvini non va più invitato in televisione perché altrimenti siete corresponsabili di quello che dice. Non lo so, non hai niente da dire su questo? Pensi che io invece avrei da dire che la Boldrini non potrebbe essere il presidente della Camera, visto che è stata votata da una maggioranza che oggi non c'è più, che si è sfarinata. Lo so, però le regole non sono quelle, però. Ma le regole non è che possono valere a seconda dei presidenti. Ma tu ti riconosci in questo presidente? La Boldrini non potrebbe più essere il presidente della Camera, come... perché oggi non sarebbe più votata la Boldrini. Per quello sicuro. Dovrebbe stare, tenersi il suo bel sederino al calduccio... e capire che è usurpatrice, perché oggi non sarebbe più votata, per cui parlare meno, parlare poco, perché non è consapevole della democrazia, perché oggi se dovesse il Parlamento esprimersi sulla votazione del Presidente non della la farebbe, Camera, non la farebbe la Boldrini più. Non sarebbe. Allora quando che sei un posto sicuro, che non ti aspetta e taci e devi stare zitta. Sei un'usurpatrice, siedi su quello strano. Ma usurpatrice, però i presidenti della Camera una volta che vengono votati. Ho capito, Cruciani, una volta che vengono votati, ma no? Che vuol certo. Dire? Ma è una che parla troppo. Abbiamo anche Monti, che prima di fare presidente del Consiglio, il peggiore. Ma non conoscete è diventato senatore a vita, lo paghiamo su quando muore. Ma voi sapete cos'è una democrazia parlamentare o no? No, io so cos'è la democrazia. Beh, so allora, la democrazia. Io so che cos'è la democrazia. Ma forse la Boldrini non lo sa che cos'è la democrazia. Ma io dico, può piacervi o non piacervi, questo è legittimo, è un giudizio vostro. Ma che di usurpatrice? Ma di che parlate? No, lei dice usurpatrice perché... Ma ho capito, ma di che parlate? È una cosa politica usurpatrice. È evidente che non è usurpatrice, perché uno che viene eletto presidente della Camera, finché non viene sciolta la Camera o finché non si dà... Appunto. Non so nemmeno se è possibile l'impeachment nei confronti del presidente della Camera. Forse sì, c'è la mozione di sfiducia. Non credo che possa essere cambiato il presidente della Camera comunque. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Roberto da Padova, vai, adesso riprendiamo la linea con la Santanchè. Animerette, ridetesto, in voi non c'è nulla di buono, di cattivo, quasi niente. Non ho capito, scusa, non ho capito, Roberto, che cosa hai detto? Ho detto, animerette, ridetesto, non ho in capito. Voi non c'è nulla di buono e di cattivo, quasi niente. Adesso l'hai capito? Non c'è niente di buono, di educativo, niente. No. In voi non c'è nulla di buono, sì. E di cattivo quasi niente. Che vuol dire? Vedi? Vuol dire che praticamente voi alterate tutti quelli che possono essere dei parametri, dei valori e diritti universali, capisci? Noi alteriamo comunque, tu sei alterato, non è che noi alteriamo i parametri. No, guarda che alterato è veramente tutti i valori. Comunque, aspetta, stai lì, Roberto, stai lì, che abbiamo ripreso la linea con la Santanchè, poi torno da te, non ti preoccupare che c'è una cura speciale. Dove ero rimasta, poi la tua Boldrini mi ha cercato di tagliare i fili del telefono. È la Boldrini che ha cercato di tagliare i fili. No, Parenzo dice che non conosce la Costituzione perché una volta che uno viene eletto punto e basta. Ma ho capito, la conosco benissimo, non ho bisogno del professore, lo so bene. Ma secondo te deve stare zitta, parla troppo la Boldrini? Non è che parla troppo, dice cazzate, parla a sproposito, ma ci mancherebbe che in una democrazia... Guardate che io combatterò tutta la vita, perché anche quelli come Parenzo, che sono il mio opposto, la pensano al contrario di me, possono comunque prendere questo le non c'è dubbio, questo non c'è ma dubbio. Ci manca. E la Boldrini fa l'appello, faccia appello a altri tipi di organi che gli farebbero meglio. Che organi? Ma io voglio dire, che organi deve fare appello? Appello agli organi di stampa di non invitare scusa, ma i Salvini. A quali organi? Ma io non lo so, gli organi non lo so. Hai detto faccio un appello ad altri tipi di organi, e gli organi sessuali, hai detto. Ma cosa vuole, un disegno? Ma dico, ho capito, ma che appello deve fare? Ma a parte questo, parla di democrazia e di Costituzione la Boldrini, che fa l'appello agli organi, non invitate più Salvini? Ma vi pare questo un concetto democratico? No, ma questo certamente no, ma l'appello agli organi... Allora, ma l'appello ho capito, ma tu hai detto faccio appello ad altri tipi di organi, che tipi di organi? Cazzo, ma sai che cosa? Ma vado ad altri organi. Quelli organi sessuali. Statutari. Ma che no, ma siete malati. Ho capito, ma non è che l'ho fatto io il paragone, l'hai fatto tu. Ma no, ma pensate sempre male, ma fatelo di più. Vuoi ragazzi, il disegno, l'hai detto tu. Un'ossessione per voi. Sì, vabbè. Senti, vabbè, io non ho capito una cosa. Andiamo ad un'altra vicenda un po' più soft, diciamo, che è importante anche per il lavoro di editore che fai, che è quello del tuo amico Briatore. Noi ci ha raccontato che non ha fatto per niente il lifting e invece è dimagrito di 16 kg e noi gli crediamo. C'è stato anche l'intervento di un dietologo qui da noi che ha confermato, ha perso 16 kg. Tu straconfermi questa cosa? Ha fatto qualche ritocchino il signor Briatore? Ma io voglio dire, ognuno racconta la propria verità. Vabbè, tu sei molto amica, sei molto amica del signor Briatore. Ma non c'è una verità, ci sono tante verità. Ma come ci sono tante lasciamo verità? Lasciamo il Briatore la sua verità. No, lui dice che non si è rifatto. Secondo te si è rifatto? Bene, se lui non si è rifatto io ci credo. Tu ci io credi? Mi sono rifatto al naso, allora. Ma quando te lo sei rifatto il naso? Quando avevo 18 anni, non mi vergogno perché non sono a Platone. Ma hai sempre detto che non t'eri mai ritoccata, invece adesso no, ci sta... io l'ho sempre detto, ma siccome sono andata avanti, che non è come diceva Platone che il corpo è la prigione dell'anima. No, beh, certo. Io invece ritengo che il corpo uno se lo può mantenere bene, se lo può anche trasformare. Dovere, se lo può anche trasformare. No, trasformare magari no, però vado dal dentista se ho una carie, vabbè, quella è normale. Televisione, e la mia macchina cerco di attrezzarla al meglio. In che senso? attrezzarla al meglio, nel senso che ah, la macchina, il corpo, bene sì. una macchina è come il corpo. Però non ho capito una cosa, tu oltre al naso non ti sei più rifatta nulla, niente? No, niente. Nulla. Quando lo farò non avrò nessun problema. Il seno, le tene, niente. Si ruba, si nasconde solo quello che si ruba. Io come non ho intenzione di rubare, non ho intenzione di nascondere. La Littizzetto, ha detto che la Gregoraci manco lo riconosce, che è un incrocio tra Califano Sting dopo 10 caipirini e Della Valle. Vabbè, ma sono cattiveri. Vabbè, quella fa la cosa. Però la Littizzetto, se rifacesse qualcosa, non sarebbe meglio. Tu dici, dovrebbe rifarsi. Ma io glielo consiglio. Ma perché? Ma però se è felice così, guardate, il complesso non è mai proporzionato al difetto. Quindi, ho capito, se ma uno cosa si sente figa ed è un cesso, sono felice per lei. Che si dovrebbe rifare, dici, il naso? Ma adesso non ce l'ho ben presente la Littizzetto, ma sono un ritocchino. Che adesso, ma siccome non ce l'hai presente. Ma una volta gli hai fatto pure il dito medio, la signora Littizzetto, ce l'hai presentissima. È così simpatica la Littizzetto. Dici che sopperisce ad altre cose. Scosciata, con quelle gambe lunghe, belle, magre, sul tavolo, quanto mi piace, così sexy. Vabbè, adesso è veramente una presa per il culo. Io sono seria. Le gambe lunghe la Littizzetto, ma io le vedo lunghissime le gambe, belle e magre, la faccia con un bel femore, una faccia da Sharon Stone, no? Ma io la vedo meravigliosa. Quindi voglio dire, una faccia come Giselle Bündchen, una faccia da Giselle Bündchen. Ma sono le gambe, quando è lì su quel tavolo, che sembra con quello pacco di cosce che la Parietti gli fa un baffo. Senti, sei sollevata dal fatto che Alessandro non è candidato a Milano? Sì, diciamo la verità, un sospiro di sollievo l'hai fatto. Molto. Sei sollevata. Molto. Sì. Ma come sta affrontando il nostro amico direttore? È un po' depresso da questa cosa? No, è in una forma smagliata. No, ma questa vicenda della gravidanza della Meloni... Ma che gliene frega Sallusti della gravidanza della Meloni? Come la sta affrontando? No, nel senso ma che gliene frega? Ma Parenzo è rimasto un giro indietro. Parenzo è rimasto indietro alla Meloni? È rimasto un giro indietro. Così avete più tempo da passare insieme, no? Da che lui non sia candidato a Milano. No, perché lavora come una bestia, fa il direttore del giornale. Adesso lavora come una bestia. Seguo la sua passione. L'importante nella vita sono le passioni. Sì, no, ma tutto il resto non conta. No, questo è vero, questo è vero. A me piace quando dà battaglia. Quando dà battaglia è meraviglioso. Perché non adottate un bambino? Sarebbe straordinario. Lei ha pensato di farlo? Eh? Lei ha pensato no, di io farlo? No, io non ci penso. Ma lui... No, io devo badare già a me stesso, che è un problema gravissimo. Cara Daniela, forse lei cerca qualcuno che l'adotti. No, io mi vorrei. Non è in grado di no, lo sai che cos'è? Lo sai qual è il problema? Sì, qualcuno dovrebbe adottarmi. Ci sono delle persone che vorrebbero adottarmi, in particolare una persona. Ma lanciamo un appello. No, c'è una volta noi a Milano avevamo fatto la campagna adottato un nonno. Io adesso faccio la campagna adottato un Cruciani. Fidanzatevi con Cruciani. No, è come l'adozione. Ma è permesso? È come l'adozione? C'è una persona. No, che... perché l'adozione per la vita è un fidanzamento a tempo. Ma beh, fidanzamento non è un bene disponibile. Io non riesco, capito? Non che devo fare, Daniele? Che non ci riesco. Ogni volta che credo di essere un vizioso. Sono un vabbè, non ho capito, non è che i viziosi però sono. Sì, è no, vero. Ma insomma, poi è difficile trovare delle donne che amano, eh? Non è così facile. No, ma io le trovo anche, trovo delle donne che mi amano. Sì, ma lei si stufa. Mi stufa. A gusti misti, forse. No, misti che vuol dire misti? Sì. No, ma che vuol dire, Parenzo? Gusti no, misti? Gusti contaminati, misti. Poi uno sporcaccione non si lava mai. Ma quello non c'è. No, questo non è vero. Questo difendo Cruciani. No, che... ti assicuro. Ma Parenzo, guardi, glielo dico. Guarda che Cruciani piace, eh? No, ma piace perché piace. Comunque la puzza a qualcuno piace. Cioè. No, ma non è quello. Anche lei, Parenzo, il suo perché. Non si butti giù. No, perché mi tutti sono... hanno un loro perché. Apparenza è fuori mercato ormai. Io sono tranquillissimo da questo però punto. È fuori mercato. Tu che tranquillo, tre figli. Tre figli, una bella ragazza che lui ma non... Ma lei scusi, una ragazza, una moglie, si è sposato lei? Io mi sono sposato una volta, sì. Voi... No, ma Parenzo è sposato. Parenzo è sposato, no, separato e adesso sta con un'altra persona volta. Con cui ha fatto due figli. È il tipico esempio di famiglia perfetta italiana, insomma, del family day. No, non è proprio la famiglia la Mulino Bianco, Parenzo. Beh, adesso sì. Prima... No, beh, normale. No, io voglio dire una... Io voglio dire una cosa, Daniela, scusami un attimo, ma cosa posso fare io secondo te per mettermi, tu che sei un'esperta di queste cose, niente. Per mettermi seriamente con qualcuno, non ce la deve posso trovare fare. L'amore, guarda, quando lei trova l'amore, ma è troppo semplice così, te... dai, è troppo ma non è molto scusami, difficile trovare l'amore anche quello che fai con le mutande, perché è così no, che c'è nel merito, no, perché... ma deve trovare, guarda, non si faccia troppe domande, Cruciani, non si preoccupi, tu per esempio hai amato qualcuno qualcuno come ami adesso Alessandro? No. No. È l'amore più sconfinato della tua vita? Sì. L'amore più grande della tua vita? Sì. E come l'hai riconosciuto? C'è stato un momento in cui l'hai riconosciuto questo amore, no? In cui hai detto questo è l'amore, no, un bacio. Quando ha fatto il titolo quando, quando c'hai fatto. Ma le farfalle nello stomaco, cosa hai detto? No, no, un... Quando ha fatto. Cosa sta dicendo? Quando, io non sento. Quando ha fatto un titolo contro no, Prodi. Abbiamo scoperto l'ultima novità che Sala, questo candidato del cosiddetto centro-sì, è incinta, non può governare Milano, chiaro. Così, ma farla così. No, vabbè, c'è stato. No, è straordinario perché lui. Ah, ti piace l'R Moscia? Ti piace pure l'R Moscia? No, perché è lucido. Fantastico. Ti arrapa pure l'R Moscia. Dai, su, ma siamo seri. Voi confondete tutto il resto che sono cazzate con l'amore. L'amore è una cosa seria. Ma quando te ne sei accorta di questa cosa qua? C'è stato un momento. Lei vedrà, sa qual è il problema? Che l'amore non è un bene disponibile, che non si può giurare per tutta la vita. È questo il problema. Vabbè. Questo senti, è il vero problema. Perché tifi per Trump? Perché tifi per il signor Trump? Perché Trump mi piace, un uomo ti piace molto Trump, intelligente. Eh? Sono andata a vedere le dichiarazioni che il riporto ti piace. Ronald Reagan, che per me è stato il miglior presidente degli Stati sì, Uniti. Sì, è vero, ci sono. E delle... sono le stesse che adesso fanno per Trump. Un conto la campagna elettorale, un conto governare. Ma non ho capito, che sarebbe un ottimo. Ma ti piace pure il muro per i musulmani che vuole fare? Il muro per i musulmani, no, il muro, quello è per il Messico. Guardate che in campagna elettorale si dicono un sacco di cazzate. Ma diciamo. Io l'altro giorno ho detto che non voglio che l'Italia diventi il Messico dell'Europa. Vabbè, tu dunque hai detto una cazzata pure te. Dunque hai detto una cazzata in campagna ma elettorale. Una cazzata col botto proprio. Io non credo di aver detto una cazzata. Comunque abbiamo scoperto una cosa oggi, che la Santanchè su Berlusconi è rimasta quando aveva detto che vede le donne solo in orizzontale. Diciamo la verità. No, assolutamente. Come no? Sei rimasta lì. Assolutamente. Come no, lo direi di lei, Cruciani. Ma direi di tutti gli uomini italiani. No, no, no, no. Invece l'hai detto di Berlusconi una volta. Invece... Ma lo dico di lei adesso. Vabbè, lei lascia perdere. Solo le donne orizzontali. Assolutamente no. Allora diciamo sì, la verità. Cruciani, quando hai detto di Berlusconi. Maestro, ma io zero, maestro, ma io zero proprio. Io zero proprio. Sono le donne. Lei è sono maestro. Le donne che mi vedono in orizzontale a me. È diversa la cosa. Sono no, le io la vedo sempre in piedi. Ma sono le donne che mi vedono in orizzontale. Ti io posso la vedo. La vedo in piedi, la vedo in piedi. Ma quello ogni piedi. Tanto ogni tanto in piedi non è male. Poi con vicino Parenzo tutti e due in piedi. L'articolo Il, che è meraviglioso. Però ti dico una cosa, che sei rimasta ancora, giustamente, a Berlusconi che vede le donne in orizzontale. No, ti penti di quella frase che hai detto? No, io non mi pento mai di niente. Allora, se mi devo pentire di una cosa, mi pento di avere un solo figlio. È l'unico rimpianto. E perché non ne adotti uno? Del resto non ho rimpianti. Vabbè, ciao. Del resto non ne ho. Ciao, a presto. Vi voglio bene, ciao, adottate ciao. Un Cruciani, mi ciao. Raccomando. Ciao, arrivederci. Ciao. Che Italia di merda. Ma si può che mi hanno chiesto 80 euro per mettere a posto il tappo della mia Mont Blanc? È tutto degradato, degradato. La Zanzara. Caro Giuseppe, i 200.000 euro sono arrivati. Non so se ti hanno avvisato, ma tu lo prenderai in culo due volte, la prima è ben nota, la seconda te la darà il fisco. Buon divertimento. Io non ho visto nulla fino adesso, fatevi avanti. Fatevi avanti. Mi mette male. Fatevi mette avanti. Male. Allora, eravamo con Roberto da Padova, eh? Poi c'è il traffico perché questa, figuriamoci. Sì. Nonostante sia la trasmissione quello che è massacrata. No, ma invece è utilissimo, guarda. Ma che è utilissimo. Se c'è una cosa utile, visto che questa non serve a un cazzo, ascolta. Detto con tutto rispetto no, di chi, no, di chi lo fa. Io l'altro giorno ero in macchina. Sì, che cosa hai fatto? Ti sei regolato in base alle cose che dicono sul traffico, ma non dire minchiate, dai. Ho fatto la zanzara dalla macchina. Ormai ci sono i telefonini per il traffico, ragazzi, non diciamo puttanate, dai. È utilissimo. Metti quel telefonino. Dai. Va messo più spesso. Roberto, dai, sì. Ma che cazzo, sì, cazzo, non so cosa fa la guerra alla zanzara, però. È impazzito. No, no, il traffico va messo più. Sì. Il tempo no. Ecco, sì. Il tempo mi sta sulle Roberto, palle. Ma non capisci una mazza di radio e parli, Roberto da Padova, ma no, dai. Il traffico ci vuole perché sì, ci vuole, non capisci una mazza. Il time questo qui, sì, drive ci time vuole sta minchia. Roberto quando da Padova. Ma allora in macchina deve sapere cosa succede. Sì, guarda, Roberto, ci vuole il traffico. Per cortesia, non sovrapponetevi altrimenti non si sente nulla. Dai, non si capisce nulla. Dunque, è arrivato lui. Magari lo facciamo apposta. Ma no, Cruciani, a proposito, sei un fedifrego. Perché, se ti ricordi bene, è inutile che fai finta di essere il Verdinello. No, veramente. Ti ricordi quando ti ho portato a letto la prima volta e ti ho detto, caro, adesso te la metto dove non te l'ha mai messa nessuno? Ma chi tu? E tu quasi credendomi mi hai detto, mi hai risposto, no, sugli occhi no, perché sugli occhi mi fa tanto male. Roberto, vatti a fare una pera di eroina, va, che forse solo con quella riesci a rimediare la tua grave condizione, va, ciao. Ascoltami, ciao, ciao, ciao, vatti a fare una bella pera di eroina, che forse poniamo fine a questa tortura. Ascolta Gruciani, ma mi è venuta in mente una cosa, perché non sostituiamo il traffico automobilistico con delle news sul traffico di stupefacenti? La Zanzara. No, scusa, non so se hai notato, David, non so se hai notato adesso, hai sentito il traffico, no? Non so se l'hai sentito. Poi uno dice che non si incazza. Allora, uno dice, vabbè, c'è notizia sul traffico, dice, però andate sul sito. Ma scusa, amico mio, ma sei lì? No, dice, se volete... No, ma sei lì, sei lì. Dice notizia sul traffico, sei lì apposta, cioè, no, io non la sento. Tu lo hai, no, tu lo, no, tu ma lo hai, se dire, volete andate sul sito. Ma, lo hai, ma stai qui, perché... ma quale sito? Allora andiamo direttamente sul sito. Ma che cosa, ma ne sento? Ma se uno è in macchina, ma dai matti, spacco tutto. Non voglio andare sul sito. Se sei qui, dimmi le notizie del traffico. Manuele da Trieste. Porca, io voglio puttana. Il traffico. Manuele da Trieste, dai. Sì, dai, ascoltami, dai. Mi hai tradito sto giro perché ti sei accodato con tutti quanti con la storia della Meloni che deve decidere lei se sì o se no. Beh, certo, so, quello è la libertà personale, amico mio. Cioè, sì, cazzo, io so che nella mia attività c'ho tutte le donne che quando sono incinta, prima ancora di essere incinta, si mettono in maternità e stanno là un anno e mezzo, due anni. Purtroppo allora, le leggi sono troppo, da questo punto di vista, consentono troppo di stare. E allora uno gli viene da dire fai la mamma, perché visto che il 90% delle mamme si mettono in maternità per due anni, e viene normale a dire che è meglio che stia la mamma e non può fare la sindaca, o no? O no, però scusami Emanuele, qui siamo in presenza di una cosa. Io ho detto due cose. La prima, la storia della gravidanza, no, secondo me è stata sempre una scusa, perché io ho sempre sostenuto che si può fare tranquillamente il sindaco alla campagna elettorale col pancione, però per carità, se uno non se la sente, non se la sente. Adesso invece ha cambiato idea. E dunque prima non era così vero che col pancione non si può fare la campagna l'uso elettorale. Politico della gravidanza. C'è solo una questione politica, cioè di relazioni tra lei, Salvini, Berlusconi, Bertolaso, eccetera, eccetera. Sì, poi la questione della gravidanza, delle donne che vanno in gravidanza, in questo caso non c'entra un cazzo, perché quella non è che è dipendente di qualcosa. No, perché ha qualcosa di meglio da fare, perché se fosse dipendente sarebbe a casa che non potrebbe neanche muovere un piede, però. Hai capito? Però Manuele, ma scusa. Dai lavori che fai, no? Ma sì, ma dai, dipende dai lavori che fai. Comunque, guarda, non vi fate ingannare da questa finta discussione che c'è in giro sulla sindaco mamma, sindaco in gravidanza. La questione è solo politica. La questione è solo ed esclusivamente politica. Chiaro. Tutto il resto sono tutte frasi strumentali e tutte cazzate. La questione della mamma, la gravidanza, è stata... tutti hanno una contraddizione. Bertolaso stessa aveva detto che non voleva fare il sindaco perché c'era la questione di salute della nipotina, non mi ricordo dove, a Londra. Poi improvvisamente le cose si risolvono, lo chiama Berlusconi e si candida a fare il sindaco. Sì. La Meloni prima dice no, non lo voglio fare perché sono incinta. Dopodiché questa questione scompare. Salvini prima si mette d'accordo su Bertolaso e poi dice no, non va bene perché ha detto che i Rom sono vessati. Berlusconi... Ragazzi, tra l'altro la Meloni è per la famiglia, che tutti quanti devono stare dietro i bambini, che ha bisogno di papà e la mamma, dopo lei va a fare la sindaco non se la vede più in famiglia perché ma quello sono affari suoi, ma quello sono affari suoi, quello sono affari suoi. Andrea da Padova, vai Andrea. Buonasera. Dimmi. Sono Andrea. Niente, io volevo dire una cosa sul fatto di Bertolaso e la Meloni. Per me è tutta una farsa. Questi qua vogliono far finta di candidarsi per fregare il Movimento 5 Stelle. Fregare, che vuol dire fregare il Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle. Ma sono rivali, ascoltami un attimo per piacere, non fare subito. Chi è che governa Roma? È impossibile governare Roma, è ingovernabile. E allora che cos'è il complotto del computer? Ci vuole un computer per governare Roma, perché non è possibile, ormai è troppo affossato. No, però io sono d'accordo che Roma è ingovernabile. Dunque, Andrea? Allora praticamente questi qua fanno finta di candidarsi, in realtà la Meloni non ci pensa neanche. Beh, non ci pensa, pare che domani si candida. È tutta una mossa fatta per fregare il Movimento 5 Stelle. Ma perché? Questa è la tesi, era la tesi della taverna, che vogliono farci governare. Ma lasciami parlare, porca miseria, non parlarti sopra, porca miseria. Ma che cazzo fai? Sei impazzito, sei, Andrea? No, cioè, sei tu impazzito. È impazzito. Lasciami parlare. Ma scusi, Andrea. Tu puoi Andrea, parlare scusi. Sopra agli ascoltatori. Ecco, un altro che si deve fare una bella pera per calmarsi. Andrea, scusa, Andrea, un attimo. Scusa un attimo. La è molto semplice la questione. Posso dire una cosa al politologo, Andrea? Sì. Ecco, vai. Scusami, politologo Andrea. Sommessamente. Da quando? Da quando? Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento. Ma non anch'io, sono non ho capito una mazza, Andrea. Scusami, non ho capito una mazza anch'io. Allora, io dico. Spiegaci, professore. Vediamo. Allora. Vediamo se ce la fai, però. Sì, però velocemente, siamo alla radio. La trasmissione è delle 20:50. Intanto non sono professore, ma sono un ignorante, ma di quelli. Ma no, vabbè, non ti preoccupare, professore, vai avanti. No, perché cazzo dite politologo l'uno e professore l'altro? Ma che cazzate dite? Vai, avanti, professore, vai. Ma che cazzate dite? Io voglio solo esprimere il mio pensiero. Ho capito, siamo qui, se pendiamo da... Lasciatemi parlare, ma scusa, ma stiamo praticamente aspettando che Ciucci il tuo pensiero pendiamo dalle tue labbra. Sia Bertolaso che la Meloni per me è una mossa politica perché nell'uno nell'altro vuole andare a governare Roma. Lo sanno benissimo che Roma è ingovernabile. E allora bisogna mettere un computer. Allora vogliono fare il trabocchetto ai 5 Stelle. E perché il trabocchetto ai 5 Stelle? Per farli vincere. Alla fine i 5 Stelle ne vengono fuori male. Perché ne vengono fuori male? Va bene. Non capito. Cioè, tu dici, aspetta. No, Andrea, scusa, non abbiamo capito. Vi lascio stare. Aspetta. No. Vincono, tu dici che no. Tu dici vincono. Scusa, no, ma forse era la tesi della. No, le cose sono due. O questo è troppo intelligente. Esatto. Io il passaggio che non ho capito è quello del computer. No, perché lui dice ci vuole un computer. Cioè, ma come è il fratello di Casaleggio questo? Solo il computer può governare Roma. No, ma poi si arrabbia, richiamalo un attimo perché non... merita di essere richiamato. Andrea è da Bari. Quasi più simpatico di Auriemma questo qua. Andrea da Bari, vai. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Salve. Ascolta, Giuseppe, una semplice curiosità relativa al caso Pantani. Sì. Comunque potresti sentire Gianni Minà o Gianni Mura. Sì, Gianni Minà e Gianni Mura, così famo la cosa. Famo 200 miliardi di scommesse lì. Sì, ho capito, periodo. Ragazzi, o uno porta le prove che la Camorra ha corrotto i medici perché perdeva un sacco di soldi con le scommesse, oppure sono chiacchiere di pentiti dette a Vallanzasca in carcere, forse ai magistrati. Ho capito, però dimostrateci che c'era questo giro di scommesse, dimostrateci che i medici sono stati corrotti con le provette, altrimenti sono tutte bellissime chiacchiere, per carità, la dietrologia. Possiamo fare trasmissioni intere meravigliose, la Camorra contro Pantani. Fantastico, dopodiché le prove, dove cazzo stanno le prove? No, effettivamente un cazzo. Scusami, c'erano un sacco di scommesse, si parlava delle scommesse, ho capito, però poi uno le prove le deve portare o no? Cioè, le deve portare o no ste prove? Comunque Andrea, ciao. I vegani hanno sfracassato il cazzo è rotto. La Zanzara. Cruciani, il culo all'asta dell'informazione. Ritorna Tipi da Zanzara, Angelo da Caserta, vai. Tipi da Zanzara. Angelo, provincia di Caserta, vai. Oh, Cruciani, ciao. Dimmi. Senti, io sono un ex militare, no? Sì. Mi è capitato nel 98-99 che ci hanno mandati in Kosovo. Sì. Praticamente in un posto in mezzo al fango, non c'avevamo niente. Il nostro Ministero della Difesa ci ha mandato professore allo sbaraglio. Vabbè, Angelo. E sono stato io e i miei colleghi 20 giorni senza lavarci. praticamente abbiamo organizzato una, diciamo, una gara tra di noi, chi ci arriva il puzzo più gradevole. La giudice era una kosovara che lavorava lì nel bar, diciamo, c'era un piccolo bar. Pensate, e che io ho vinto la gara per il puzzo più gradevole. Questa kosovara che ha fatto dopo? Lei ha giudicato il nostro puzzo. Pensate. Non si è aggiudicata pure l'uomo? No, era un mostri, la scopacchia. Eccolo qua, il giudice Tronchon da militare. Che c'aveva in tenda, guarda che è quello. Da quell'esperienza mi lavo solo perché mia moglie mi impone di lavarmi. Perché anche a me ti capisco, amico mio. L'acqua addosso ti dà fastidio, ti dà fastidio. A una certa mia moglie mi fa due palle così, vatta a lavare, vatta a lavare. Te credo. E perciò mi lavo. E io da quell'esperienza dico che lavarmi di meno mi sento meglio. Oh, beh, Parenzo ti ha detto zozzone. Parenzo ti ha detto sei uno zozzone. Ma era sua moglie. Lui. Sua moglie glielo dice che è uno zozzone, mica io. Ma ha detto che ma sua moglie non mi dice che per forza. Mia moglie mi dice almeno una volta a settimana lava. Appunto, mica te lo dico io che continua a vivere così, ma che me ne frega, basta che non mi passi davanti. Non mi lavo a pezzi. C'avevamo Barbara. E che era la bambola gonfiabile. Era la bambola gonfiabile che è un mito, calcola. Io mi sono fatto il capodanno del 2000, me lo sono fatto in Kosovo. E l'unica donna che stava tra di noi era Angelo. La nostra Barbara. E ti dico, quella sera Barbara ha fatto gli straordinari. Vabbè, amico mio, ma che ci facevi con la bambola gonfiabile? I racconti di Angelo. Ma che ci facevi? Ci giocava a carte, che ci facevi? Non è possibile che in due mesi e mezzo tu, Angelo, uomo del sud, ormone a mille, un po' due mesi e mezzo, detto, un po' sporco anche. Barbarelle. E poi c'era anche un'altra opzione, diciamo, c'era un certo Salerno, come cazzo si chiamava, di Roma, e lui soffriva a tutti, però a me... Non... Anche era omosex? Sì, era omosessuale dichiarato. Ma un militare, dici? Sì, era un militare, un mio collega, sì, un ex collega. E che faceva le marchette lì in caserma? Faceva le marchette. Quello c'aveva un ufficio suo. E ti dirò, non eravamo solo nella truppa. I clienti più attratti erano gli ufficiali. Abbraccialo, va. Abbraccialo, Angelo, dice, abbracciamoci tra di noi che non ci laviamo. Tra voi che puzzate. Angelo, dove sei? Angelo. Pensa che odore. Non c'è la cosa più sexy del puzzo dell'uomo. Hai capito? Quando la donna ti sente mamma che puzza, si arrapa come la cesta. Professor Angelo. Abbracciamoci, abbracciamoci, sì. Angelo. Tant'è che la moglie dice vai a lavarti, ti prego, tanto lo abbracciamoci, adora. Abbracciamoci, sei la puzza umana. Tipi da zanzara. Beh, secondo me Angelo da Caserta, ex militare in Kosovo, credo che sia stato uno dei momenti più alti. Credo più alti tra gli ospiti della Zanzara, cioè tra gli ospiti, tra gli ascoltatori della Zanzara. Momento irripetibile quasi, quasi irripetibile. Meno male che non esiste la radio olfattiva, l'ho detto già un'altra volta, ma è azzeccato questa volta, perché altrimenti la gente avrebbe già cambiato canale. Tra il tuo olezzo e quello di quest'altro sporcaggione. Ma io veramente cerco di odorarmi un po'. Adesso faccio come Corona, che organizzerò una specie di... No, ma non esiste. Sei fortunato perché non c'è la radio olfattiva. Però potrebbe anche... I milioni che ci ascoltano e ci seguono non hanno questa fortuna, diciamo. Sarebbe bello se si potesse accendere la radio e sentire l'odore dei conduttori. Sarebbe molto divertente. Lorenzo da Pisa, vai. Vabbè, chiudi tutto, va? No, che chiudo tutto? Aspetta, mancano 10 minuti. Dai, Lorenzo da Pisa. Pronto? Dimmi. Ciao, Cruciani. No, senti, volevo dire solo questo, cioè che mi fate un pochino, diciamo, incazzare, sì. dei parents, sì. Quando per il vostro trattamento, diciamo, diverso che avete quando chiama, per dire, un transessuale, cioè chiama un transessuale, cioè, esaltatissimi, cioè, oddio, oddio, bellissimo, sentiamo cosa ci dice. Ma veramente, bellissimo, bellissimo, sentiamo, questa è la tua ricostruzione, non è così. È vero, cavolo, quando chiama, vabbè, allora... con tutto il rispetto, cioè, che possa avere tutto, chiama invece una normale persona, cioè, che si può professare anche cattoliche e tutto, voi invece merda sopra, rivedi là. Ma no, è una ricostruzione, è una ricostruzione molto molto approssimativa di quello che accade, vabbè, in questa trasmissione. Perché voi vi fate tanto personaggi di sinistra e invece fai un'altra cosa. Guarda, a me di sinistra non me lo dici perché mi offendi, per cui io non sono certamente di sinistra, amico mio, non sono né di destra, non sono certamente nato in una cultura di sinistra, non ho mai preso la tessera di nessun partito, né di nessun movimento. Non me ne può fregare di meno, per cui io sono del partito del cinismo. Dunque, a ma me neanche la tessera radicale mi hai preso? Forse una volta per sbaglio, ma non sono nemmeno sicuro. Guarda, credo di non essermi mai iscritto perché costava troppo l'iscrizione radicale. No, ma costava troppo. Mi ricordo che costava 250 euro all'anno, una follia. No, quella era quella radicale transnazionale. E quello era, quello sto dicendo. Io pensavo il Club Pannella. Ma che Club Pannella? Quella del partito radicale costava 250 euro. Nessuno tocchi Cairo, non c'è pace senza giustizia. Ma sì, non c'è pace senza... Dai, lasciamo perdere. Si chiama così. Vabbè, nessuno Lorenzo, Cairo, hai sbagliato indirizzo. Lì è Simone. Va bene, Simone da Lucca, dai. Simone? Finocchiacci. Simone, dimmi. Volevo dire due cose. Dimmi, caro. Una, volevo ricordare che il 17 aprile c'è il referendum sulle trivelle. Sì, il referendum sulle trivelle che però ha preso una cantonata pazzesca perché ha fatto una pubblicità, cioè l'agenzia pubblicitaria che è incaricata di fare questa roba qui, cioè della comunicazione del referendum, hanno preso una cantonata pazzesca perché... Sì, hanno ma fatto... i giornali non ne parlano nessuno. Vabbè, adesso a noi del referendum sulle trivelle non ce ne può fregare. A noi della Zanzara ricordare. Non ce ne frega una mazza del referendum sulle trivelle. No, dite. Ma niente, proprio niente. Ricordare. Cioè, se a me mi dicono vai a votare per il referendum, se mi dicessero questo, gli sputo in faccia. No, però c'è questa polemica relativa alla campagna di pubblicità di promozione che hanno fatto. No? Sì, che in realtà sono stati anche bravi perché hanno, cioè, hanno fatto parlare del referendum. Hanno fatto parlare del referendum. Ecco, perché c'è chi non sa magari, no? Sì, perché sì, tu ti riferisci a quel manifesto online, tu lo sai, caro amico, di cosa stiamo parlando? No, sinceramente no. Ma allora, scusa, ma di che parli allora? Che non sai nulla. Neanche cioè, questo sa, basta. Cioè, c'è una specie di... I fautori del no, sì, alla trivellazione, sì, hanno chiesto a una nota società, di cui non dirò il nome, vabbè, una società di comunicazione, di fare una campagna. E hanno fatto trivella tua sorella con l'immagine, esatto, bravo, di una trivella che si inchiappetta una donna, diciamo, messa lì a pecorina, diciamo, scendere dappertutto su internet, che vuol no, dire beh, sei... basta appunto evocare la cosa, ma no, ma bisogna spiegarla, e allora c'è un'accusa sessista, capito? Questo è successo. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora, abbiamo con noi una ragazza che si chiama Anna, della serie Nuovi Mestieri Italiani, Parenzo. Abbiamo parlato di gigolò, abbiamo parlato di... No, io quest'ora tremo perché lo dico all'amico e presidente, sì, Quinti all'ascolto. Sì. Stasera non c'è Barisoni perché è a Ballarò e quindi non c'è, per fortuna, che ascolta. Ma invece ho paura per Quinti perché a quest'ora lui sarà in macchina. No, però c'è Anna, è una candidata assistente sessuale per un'associazione che si chiama Love, ecco, Giver, comitato, vedi, promotore per l'assistenza sessuale. È un problema molto serio perché c'è un disegno di legge. Avevo ragione, sul sesso alle persone disabili. E Anna si è candidata per diventare l'assistente sessuale, che è come dire la prostituta dei disabili, possiamo dire così, Anna? Sì, buonasera. Non ciao. Proprio esattamente prostituta il termine, non vabbè, lo prostituta trovo molto appropriato, però in pratica è così. Con la sessualità. Non esattamente, ci sono un po' di differenze rispetto alla prostituzione. Vabbè, la differenza viene intesa. Ma, non ho capito, tu perché hai scelto di sei stata poi scelta di... Cioè, sì, prima... ho fatto una selezione e sono stata tra i selezionati per il primo corso in Italia. Primo corso in Italia per diventare assistente sessuale delle persone disabili. Esattamente, sì. Ho capito, ma tu lo fai chiaramente anche per soldi, immagino, no? In realtà io ho il mio lavoro, quindi non... Che lavoro non fai? Certo... Io sono fotografa, quindi... Sei il fotografa? Sì. E perché vuoi dare sesso ai disabili? Beh, intanto perché la sessualità è una parte importantissima della salute della persona. Mm. I disabili sono persone esattamente come le altre. Sì. E è una tematica molto forte, molto sentita. No, ma questo non c'è dubbio che sia una tematica molto forte, importante, perché ci sono un sacco di disabili che non possono fare sesso. E dunque c'è un progetto di legge perché lo Stato si occupi, sì, anche di questa cosa qui, no? Giusto? Sì, perché tra i vari aspetti della salute appunto del disabile venga considerato anche la propria sfera sessuale. Ecco, quindi... ma tu, io però voglio capire, tu quanti anni hai, scusami? 31. Cioè tu a 31 anni, tra le altre cose che fai, dice vabbè, mi voglio dedicare anche alla sessualità dei disabili. Sì, cioè, perché penso che sia una questione più che altro di impegno verso le persone, quindi mi ritengo una persona abbastanza aperta e senza particolari tabù a riguardo. E la cioè tu faresti sesso con un disabile in tutti non i sensi? Non è esattamente fare sesso, è più che altro un'educazione alla sessualità, quindi accompagnare la persona disabile. Non sesso come lo intendiamo noi, perché comunque non è previsto un rapporto completo. Non è previsto un rapporto completo? No, è più un discorso di educazione all'affettività e alla corporalità della persona disabile. Cioè, in pratica? In pratica è un percorso educativo in cui si cerca di capire quali sono le problematiche, perché poi ogni disabilità può avere problematiche diverse, e cercare di dare degli strumenti alla persona perché possa avere una propria autonomia nella sfera sessuale. Sì, ho capito, ma al di là delle chiacchiere, poi questi qua vorranno fare sesso con qualcuno, cioè per quello che... per quello che ognuno... faranno con la persona che potranno magari trovare nella loro vita. Noi non ci sentiamo. Cioè voi siete semplicemente delle persone che vogliono, non ho capito bene, cioè, praticamente è un lavoro di squadra che si svolgerà assieme ad altre figure professionali, quindi caso per caso si andrà a capire qual è la problematica e si daranno degli strumenti, quindi ci potrà essere anche sicuramente un lavoro sulla corporalità, quindi anche sul proprio corpo del disabile, non solo nel corpo come relazione con l'altro. Cioè, non ho capito, tu farai qualcosa di sessuale con un disabile o no? Questo voglio capire. Sicuramente l'elemento di contatto fisico, sì, la conoscenza del corpo, cioè in che senso? Può essere... Per capire. Certo, possono esserci dei contatti fisici, quindi appunto dalla carezza, dalla coccola, dal contatto con la pelle di un'altra persona, che sono comunque elementi importanti nella conoscenza dell'altro. E gli atti sessuali che possono essere la masturbazione e via e compagnia cantando? Si può arrivare a un accompagnamento della masturbazione, diciamo, se il percorso lo riterrà opportuno. Al massimo quello. Mi pare una roba molto seria questa. Al massimo c'è l'accompagnamento. Assolutamente seria. Al massimo c'è... Mi pare molto interessante. Quanto sarà retribuito questa cosa? Al momento non c'è ancora la legge approvata, quindi ancora non c'è, diciamo, ma tu guadagnerai dei soldi? Sì, ci sarà un compenso che comunque serve anche per far capire alla persona che è un lavoro che stiamo facendo, quindi io non sono una sua appunto partner. In altri paesi questa figura è già riconosciuta anche in modi magari un po' diversi, quindi però al massimo ci sarà un accompagnamento alla masturbazione, cioè il massimo della cosa sessuale. Vabbè, vediamo come andrà a finire questa storia. Ciao Anna. Speriamo. Ciao, buona serata. Vi voglio bene, adottate un Cruciani, mi raccomando. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.